Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Beh, non si può dire che questa settimana ci siamo annoiati, anzi ci siamo divertiti parecchio, non soltanto mercoledì sera nel vedere il Milan fare notiziona, fare cassette, battere in quel modo il Barcellona. Tra l'altro nella settimana che ha portato verso il derby di domani sera. Ripercorreremo queste tappe con gli ospiti che abbiamo avuto in settimana, ripercorreremo queste tappe con voi ascoltatori, ripercorreremo queste tappe fino alla vigilia di questo derby, che è una grande favorita d'obbligo, e che è quella ovviamente che dopo le prime giornate era terz'ultima in classifica e che oggi è a un passo dall'eliminazione del Barcellona e ha superato l'Inter. A proposito di Inter, l'Inter è uscita domenica scorsa con le ossa rotte, triturate dalla Fiorentina e da Firenze. Ha iniziato malissimo questa settimana, poi si è parzialmente ripresa perché che può contare a Cluj nella partita di Coppa. Lunedì abbiamo sentito Fulvio Collovati, ex interista, ex milanista, campione del mondo, su questo momento dell'Inter, ed in particolare su una domanda che è assolutamente attuale: ma se Stramaccioni perde, magari male, il derby domani sera, rischia sul serio la panchina? Collovati, fai la faccia da Moratti. Fossi Moratti, una sconfitta nel derby costerebbe la panchina a Stramaccioni? Ma Moratti fa sempre delle scelte un po' inaspettate. Potrebbe costare la panchina, indubbiamente. Poi dipende come perdi, in che modo. Potrebbe, però Moratti, quando sai che piace forse anche andare contro, per cui quando tutti probabilmente si aspetterebbero l'esonero di Stramaccioni, lui probabilmente insisterà su Stramaccioni, ecco, tutto qui. Però insomma, non, anche qui fammi fare un po' l'avvocato difensore, sì. Tu sai che io sono anche abbastanza critico su certe scelte, certo. Certi errori che indubbiamente questo giovane allenatore ha fatto. Però insomma, io punterei l'indice anche su chi ha fatto il mercato dell'Inter. Certo. Cioè, io non penso che i 4-5 giocatori acquistati ultimamente, togliamo il ragazzino di 18 anni che potrà avere anche un ottimo futuro, ma il resto non sono giocatori da Inter. No, non c'è dubbio, sono giocatori normali. Il Milan prende Balotelli, l'Inter prende Rocchi, Schelotto. Rocchi ha fatto una buona carriera, ma Rocchi prende Jonathan, certo. Gargano, Mudingai. Ecco, con tutto il rispetto penso che insomma un po' di perplessità si possono anche avere. E le perplessità valgono anche oggi, naturalmente, ho l'impressione che varranno anche per il prossimo futuro. Certamente valgono fino a domani sera, fino al fischio di inizio di un derby che sarà fatalmente, lo sapete bene anche voi, che avrà al centro del circo Mario Balotelli, tutti i riflettori su di lui. Ci auguriamo un'atmosfera almeno civile, anche se non si può chiedere di andare allo stadio come in chiesa, però ci auguriamo che le eventuali contestazioni nei confronti di Balotelli, anzi le certe contestazioni nei confronti di Balotelli, rimangano nell'ambito della più assoluta civiltà. Sperare non costa nulla. Torniamo alla settimana che abbiamo vissuto. Prima ancora di andare a Milan-Barcellona c'è stata la Lazio, che anche qui poi si è ripresa in Coppa passando il turno, andando agli ottavi, battendo un avversario duro come il Borussia Mönchengladbach. Però una Lazio che ha iniziato in maniera pessima la settimana con quel 3-0 a Siena, nel segno di una delle novità di questo campionato, e cioè Emegara. Guardi il numero di minuti giocati, poco più di 3 partite, guardi il numero dei gol, 4, le stesse cifre, pensate un po', di Mario Balotelli. Abbiamo sentito Stefano Antonelli, direttore sportivo del Siena, che ci ha parlato proprio di questa novità Emegara. Insomma, questo ragazzo 4 gol in 3 partite, 280 minuti, quindi 90 più recupero, come Balotelli. Saluto e ringrazio il direttore sportivo del Siena, Stefano Antonelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavo dicendo che sulla panchina del Siena non troverà più spazio, credo, Emegara. Ma, guardi, fa piacere, perché fa piacere, è evidente che fa piacere. Però la cosa più importante, ecco, che innanzitutto lui rimanga se stesso, così com'è. Sì. Quel pizzico di incoscienza e forse inconsapevolezza di quello che sta realmente facendo. Ecco, se rimane così va benissimo che non trovi posto in panchina. Come non lo trova Balotelli, ha segnato gli stessi gol nello stesso numero di minuti, eh? E allora evidentemente Balotelli non troverà posto in panchina. Nemmeno in gara. Senta, ma è vero quello che ho letto, che corre i primi 10 metri di sprint in un secondo e 68 Bolt, insomma? Ma guardi, non gliel'abbiamo mai valutati nei test questi tipo di prestazioni. Quello che le dico è che è stato tutto molto veloce, il suo inserimento, il suo ambientamento, il suo modo di essere, che lo ha aiutato moltissimo, perché lui è arrivato in realtà 3 giorni prima di andare a giocare a Udine. Sì. E quindi diciamo che lui è arrivato il 24 di gennaio da noi, e quindi è stato tutto talmente veloce, tutto talmente così come è lui nel campo, insomma, così tutto molto immediato, molto in sprint. Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è quella di proteggere quanto sta facendo di buono. Io parlavo prima di simpatica incoscienza, lui sì. Fa tutto molto spontaneamente, e se riesce a rimanere così probabilmente si toglierà tante soddisfazioni e ci darà una grande mano a noi. Lei sa che io glielo chiederò, quindi lo faccio subito. Quanto vale? Ma no, ma questi sono, guardi, sono tantissimi anni, ormai credo che sono 19 anni che sto in questo mondo. Sì. E dico che poi per i grandi calciatori o comunque per talenti tipo Megara, poi il mercato si fa da solo, si fa piano piano, il prezzo diventa non quello che fai tu, è quello che fa il mercato. È quello che fa il mercato e quello che fanno i gol. Sì. Fatalmente. Sì, evidentemente. E questo era Stefano Antonelli, direttore sportivo del Siena, che già si frega le mani al di là delle parole di circostanze, lo sappiamo benissimo. Ma arriviamo all'evento clou della settimana, che è stato ovviamente quella Milan-Barcellona, che sembrava segnato e invece è diventata una partita a modo suo storica. Alla vigilia di questa gara, un grande milanista del passato, tra l'altro in campo quella notte in cui il Milan batté 4-0 al Barcellona con Fabio Capello in panchina, vincendo una Coppa dei Campioni da sfavorito. Ebbene, Filippo Galli, oggi responsabile del settore giovanile del Milan. Senti, il proprietario che ben conosci ha in certi casi una predilezione per la marcatura uomo, in questo caso su Messi. D'altra parte ce l'aveva anche Nils Liedholm, tu te lo ricordi bene. Certo, infatti diverse volte mi fece marcare il giocatore di maggior spicco della squadra avversaria, allora erano Maradona, Platini, c'era Bredi, che non era male. E qualche volta ti faceva giocare a centrocampo col numero 8 proprio per contrastare il giocatore più forte, che magari partiva da dietro come Messi. Sì, o comunque si muoveva per tutto il campo, perché ovviamente poi si dice che se annulli il giocatore più forte dell'altra squadra e di qua togli Filippo Galli, insomma, non era una grossa perdita per la squadra, di conseguenza era meglio giocare a 10 contro 10 per Filippo Galli, di là magari perdendo Maradona. Ecco, parliamoci chiaro. Senti, ma l'uomo, la staffetta su Messi, come la vedi? Secondo me è un argomento rischioso, perché il problema non è tanto Messi, giocatore più forte del mondo, no, indiscutibilmente, quanto affrontare una squadra come il Barça. Assolutamente, chiaramente non è semplice, qui ci vorrà una grande applicazione da parte di tutti, ma anche si dovesse decidere davvero per una marcatura a uomo, poi è ovvio che il primo controllo di Messi è quello importante, che spesso taglia fuori la marcatura diretta, quindi dovranno essere pronti i raddoppi. Io credo che davvero oggi dovrà essere tutta la squadra ad essere applicata, non solo contro Messi ma contro tutto il Barça, seguendo alla perfezione quelli che saranno stati i dettami di mister Allegri. Ecco. Io sono convinto che l'unico modo per affrontare con qualche chance il Barcellona sia regalare loro il pallone e provare a farseli sbattere addosso. È chiaro che ci vuole molta disciplina, molta concentrazione, molta forza fisica, molta corsa e molta fatica. Io credo che negli ultimi anni quello che è riuscito ad affrontare meglio il Barcellona in alcuni frangenti sia stato Mourinho, e con l'Inter e con il Real. Sì, può essere una chiave di lettura corretta, però io credo davvero che sia importante sapere invece cambiare atteggiamento nel corso della partita, saper leggere i momenti, perché ci saranno dei momenti in cui invece il Barcellona andrà aggredito più avanti, ecco, i momenti in cui bisogna andare a fare pressione o pressing, quindi essere organizzati cercando di portare via palla subito nei loro primi 25-30 metri, e i momenti in cui invece si dovrà fare densità in mezzo al campo, dovrà essere pronti gli attaccanti in fase di non possesso a ripiegare subito qualora venissero saltati. Insomma, dovrà essere una partita, come si suol dire, no? Una partita perfetta dal punto di vista veramente dell'abnegazione, dell'applicazione e della voglia di mettersi davvero a disposizione tutti quanti a favore del disegno tattico che sicuramente Allegri vorrà mettere in atto. Beh, trovo estremamente interessante sentire queste parole con il senno di poi, non so voi. Tutti convocati, Magazine. Attenzione blocchi, il pallone per Montolivo. La girata a rete! Modenghe! E il Milan in vantaggio! La palla in verticale per Nyang. Gira per El Shaarawy. L'apertura, attenzione, Muntari! Rete! Rete! Rete! Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Chi sognava già, cantarina e grita. È andata così, come poi sapete, dopo le parole, le speranze, le preoccupazioni, le mani sudate mentre ci si avvicinava allo stadio, la paura magari quando dal sottopassaggio sono sbucati quelli che sembravano marziani, peraltro con la maglietta più brutta, della divisa più brutta del mondo secondo me. È andata così, 2-0 per i rossoneri, che imparano a sognare, addirittura la Champions League, dice qualcuno, forse con eccessiva megalomania, secondo me certamente, addirittura lo scudetto, ma la strada per lo scudetto mi sembra ormai troppo lunga, meno 11 dalla Juventus. Comunque, dopo Milan-Barcellona, dopo questa partita, non potevamo che cercare un altro di quei protagonisti, di quel 4-0 che ha fatto epoca. Questa volta vale gli ottavi, può valere i quarti di finale, quella volta valeva la Coppa delle Grandi Orecchie contro un Barcellona ugualmente presuntuoso, quello di Johan Cruyff. Allora, di quel Milan faceva parte Stefano Eranio. Stefano Eranio, 5 anni, 3 campionati, una Coppa dei Campioni con il Milan, 4-0 proprio col Barcellona. Non è andato sotto così come risultato, ma io non ho mai visto il Barcellona andare sotto in questo modo nell'era moderna. Sì, hai ragione. Intanto buongiorno a tutti. Ciao Stefano. Hai ragione, anch'io sono rimasto perché sulla carta, naturalmente, come me, tanti tifosi, se non tutti, si pensava comunque a una debacle. Il fatto che il Barcellona si presentasse con la miglior formazione, il Milan, un po' per caratteristiche, comunque una formazione sicuramente inferiore. Invece sul campo hanno dimostrato che la squadra sta crescendo, Allegri ha fatto un ottimo lavoro e tatticamente è stato perfetto, perché ha concesso poco, anche dicendo che fisicamente il Barcellona l'ho visto veramente male, sì, e non all'altezza in certi singoli che di solito fanno la differenza, proprio sbagliando anche le cose più banali. Perciò tutto questo ha fatto sì che il Milan vincesse meritatamente 2-0. Sì, lezione di Mourinho, piramide difensiva, Pazzini al vertice, sulla linea di centrocampo, nel cerchio di centrocampo, vertice di questa piramide. Due linee molto vicine, metà campo occupata militarmente con grande concentrazione, forza fisica, servivano i muscoli di Muntari, Boateng, Costan, Zapata. Insomma, è esattamente il modo in cui si affronta e si batte il Barcellona, secondo la lezione di Mourinho. Ma no, quello è sicuro, anche perché le volte che questa squadra è andata in difficoltà, anche con lo stesso Chelsea, pur creando comunque tanto, perché poi la qualità è talmente alta che pur giocando una partita perfetta tatticamente, il singolo come Messi, Xavi, Iniesta possono dal cilindro tirare fuori un qualcosa di particolare. Però quando invece ti gira che sono esseri umani, non hanno la serata, soprattutto questi elementi eccelsa, rischi, perché poi non hanno varianti di gioco. Loro passano centralmente, cercano di andare in porta con la palla, e se le due linee, come sono stati perfetti quelli del Milan, non ti concedono spazi centralmente, non hanno una variante, un cross sulla fascia, andare a cercare altre vie, perciò diventa semplice in queste serate non concedere nulla al Barcellona. Sì, non credo che sia del tutto finita, penso che il Milan abbia bisogno di un gol a Barcellona, ma è una squadra con le idee molto chiare adesso. Certo, sanno che parte del praticamente se cerchi di attenderli e non dare spazi tra le due linee, limiti tanto questa squadra. È normale che a Barcellona sarà certo un'altra storia, bisognerà soffrire fino all'ultimo, però sono convinto che con una concentrazione come è stata quella di ieri sera, sai, comunque parti dal 2-0, che non è poco. Non è poco, no, non è poco assolutamente, anche se resto convinto di quello che ho detto, e cioè che sarebbe meglio provare a segnare un gol al Camp Nou, come d'altra parte riuscì due volte l'anno scorso in una partita diversa, e ve la ricordate. Comunque, di giovedì l'Inter è andata a prendere un po' di metaforico sole, anche se la notte faceva freddo a Cluj, si è tirato un po' su con questo 3-0 maturato nel finale, con un po' di autostima che cresce in vista, e ci arriviamo del derby. Sole un po' oscurato all'infortunio a Ranocchia, c'è stata la Lazio che, come abbiamo detto, ha battuto il Borussia. Vedremo se saprà sfruttare, saprà surfare questa onda anche lunedì sera con il Pescara per risalire un po' in campionato. Il Napoli invece sembra attraversare una crisetta un po' pericolosa, 5-0 nel totale del doppio confronto, con una squadra buona ma non trascendentale come Vittoria a Pisa, mi sembrano davvero tanta roba. Ieri ha parlato poi De Laurentiis dicendo: beh, futuro di Mazzarri, abbiamo un contratto, a fine anno scade, dobbiamo ridiscuterlo, se vuole restare io sono contento, se vuole andare ce ne faremo una ragione. Ma torniamo, ma arriviamo al derby di Milano di domani sera. Lo raccontiamo, proviamo ad introdurre il discorso con un nostro amico baschettaro, il vostro amico Dan Peterson, che un giorno lontano venne contattato da Galliani, che gli offrì la panchina del Milan. Sembra una favola, invece è realtà. Ce la ricorda il vecchio Dan? Coach, oggi Galliani è tornato su quella storia di Dan Peterson sulla panchina del Milan, lo sai? Sì, lo so. Quindi, sì, ma quello è nell'87, quindi siamo ormai 26 anni fa, cioè, quindi l'ho visto questa mattina Galliani, scherzavo con lui e ho detto: Adriano, avete sbagliato tutto, avete preso Sacchi, ok? Scherzando su quello, perché Sacchi ha vinto tutto, no? Quindi, però avevo in mano la mia squadra di basket, la Tracer Olimpia Milano, e non volevo avere nessuna distrazione. Se vogliamo parlare, parliamo fine questa stagione di basket, voce ferme. Sì, poi ovviamente non potevano aspettare, hanno preso Sacchi e gli è andato stra bene. Magari andava meglio con Peterson. Non lo sapremo mai. Coach, chi vince il derby? Galliani te l'ha detto? No, ma guarda, c'era anche Muratoli questa mattina, sì, la Gazzetta per Carnival Day, ok? Quindi sono stati molto cauti e anche molto complimentari uno con l'altro per quello che hanno fatto. La Gazzetta ha fatto un capolavoro di presentazione, ma io ho visto, diciamo, le due parti veramente tranquilli, ok? Nessuno agitato, nessuno, c'è, cioè, proprio sorridente, tranquilli, parlavano con voce veramente, anche con buon umorismo, tutti e due, ok? Tutti e due hanno un grande senso di umorismo, quindi e hanno fatto un appello per avere pace fra le due tifoserie, lì, però hanno detto mai è stato un incidente a Milano, quindi sono abbastanza tranquilli su questo, quindi sì. No, nessun pronostico da loro, però penso che non ci sia un pronostico, 2-2 alla fine, non so cosa dire. Vedremo se una volta tanto Dan Peterson ci becca, di solito mai, e lui lo sa benissimo, non si offende, non si offenderà se dico queste parole. Appello per il buon senso delle due tifoserie, ce lo auguriamo tutti, anche se io qualche preoccupazione personale ce l'ho e me la tengo e devo dirlo. Però derby delle parole, appunto, questo incontro tra Galliani e Moratti, sentiamoli a partire da Galliani. È un derby molto importante perché noi e l'Inter siamo separati solo da un punto e ci giochiamo tutte e due la Champions League, quindi è un derby importantissimo perché le due squadre, ripeto, sono separate da un solo punto. Quando sente Silvio Berlusconi parlare addirittura di scudetto e di vittoria alla Champions League, qual è la sua prima reazione? Sinceramente non l'ho sentito, quindi non ho avuto per il momento reazioni, ma fa bene, insomma, cerca di. Ricordiamoci che poi domenica si vota. Insomma, un po' di sarcasmo, eh? Una battuta che ci sta da parte di Massimo Moratti. Tutti convocati Magazine. Andrea Schianchi, mio amico inviato della Gazzetta dello Sport, che ha visto, seguito, mangiato con gli occhi e credo e scritto di Barcellona-Milan. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori. Peggio, guarda, io ce l'ho sullo stomaco, ma peggio il Barcellona o la sua divisa l'altra sera? Cioè, è una bellissima gara. Allora, io queste divise nuove non le posso reggere, mi danno un fastidio terribile. Per me il Barcellona è ancora quello blaugrana, insomma, sono rimasto, e il Milan è quello rosso-nero, io sono ancora fatto così, però forse sono io che comincio a invecchiare. No, ma io qualcosa di decente in giro, adesso non voglio fare rubare il lavoro a Gio Squillo, a chi si occupa di moda, però insomma ci può essere una via di mezzo tra la tradizione, cui sono anch'io favorevole, e l'orrore qual è stata la divisa del Barcellona. Comunque è stato anche un pessimo Barcellona, il peggiore che si sia visto dall'era Guardiola in poi. Bravo il Milan, sì. Ma il peggior Barcellona dall'era Guardiola in poi. Assolutamente d'accordo, direi in linea con la divisa sociale, sì. Perché sì, non è, secondo me è un Barcellona che, questa è un'impressione che ho tratto guardando la partita e poi parlandone dopo con qualificati addetti ai lavori, secondo me è un Barcellona che ha poca benzina nelle gambe, perché ha fatto pochi chilometri, tutti i giocatori nel complesso hanno fatto pochi scatti, hanno sbagliato molti passaggi, che è un indice importante perché testimonia della mancanza di lucidità. L'ho visto un pochino frenato. Questo non vuol dire che tra 15 giorni, 3 settimane, quando si gioca, sia ancora così, perché c'è tempo per rimettersi in sesto. Sì, anche se la questione allenatore finisce per contare tantissimo, ed è inutile negarlo o nasconderlo, anche se un po' di presunzione resta anche in chi ha sostituito Roura il Villanueva, no? Passeremo di sicuro, si parla di remontada, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno dato la colpa al campo pessimo di San Siro, su cui giocava anche il Milan e non solo il Barcellona. Poi si può anche discutere sul fatto che peggio è il campo, meglio vengono fuori le qualità tecniche dei giocatori, ma questa è un'altra storia. Di solito succede questo. Il problema è che il campo sarà anche stato brutto, non avrà consentito il solito tiki-taka loro. Il problema è che loro sono rimasti intrappolati da sostanzialmente quello che ho scritto sul giornale, da tre idee tattiche di Allegri, e non sono riusciti a saltarci fuori. È una squadra che è molto monotona nel Barcellona, ma questo lo è sempre stato anche nei momenti di massimo splendore. È una squadra che ha poche varianti, a differenza invece, secondo me, di grandissime squadre del passato, penso all'Ajax soprattutto, ma anche ai grandi Bayern di Monaco di Beckenbauer, allo stesso Milan di Sacchi, avevano anche delle varianti. Sì. Questa è una squadra che di varianti non ha tantissime. No, non le ha e non le ammette nemmeno dal punto di vista fisico. Palla solo ed esclusivamente per terra e si gioca solo in quella maniera lì. Esatto. Su quello stesso campo, invece, e andiamo a domani sera, un derby che, insomma, sulla carta o nell'aria come facciamo noi o sui monitor sembra tra i più scontati a favore di quella squadra che qualche settimana fa era in zona retrocessione e che adesso appunto è a un passo dall'eliminazione del Barcellona. L'Inter ha preso, dicevo prima, un po' di metaforico sole in Romania, ma non so se può bastare. Ah, guarda, io commentando l'Europa League sulla Gazzetta ho detto proprio che il Guarin piove sul derby con la forza del meteorite, perché nessuno se l'aspettava che l'Inter potesse comunque ritrovare un vago barlume di luce, però a essere obiettivi il Milan in questo momento è molto più squadra dell'Inter. È anche vero però che il derby non è retorica, ma è davvero una partita a sé. Può succedere che vinca anche quello che nel momento gioca peggio, sì. Perché può bastare una giocata particolare, può bastare un momento di nervosismo per far cambiare la partita, e secondo me quindi è una partita molto aperta. Chiaramente a livello tecnico in questo momento il Milan è superiore. Sì, Andrea, potrebbe essere una partita curiosamente rovesciata rispetto a Milan-Barcellona, con l'Inter nei panni del Milan, il Milan che magari proverà a fare la partita. Questo potrebbe essere, ma io sinceramente credo che Allegri sia molto furbo e non cada nel tranello, perché il Milan nel momento in cui gioca palla e avanza, combatte, quindi occupa la metà campo avversaria, diventa vulnerabile dietro perché i meccanismi dietro non sono ancora perfetti, è lì che il Milan dovrà migliorare. E quindi io non credo che concederà il contropiede all'Inter, perché credo che sia una partita dove il Milan eserciterà l'arte della pazienza, aspetterà probabilmente il momento opportuno, anche perché il Milan non ha poi bisogno, adesso che c'è Balotelli davanti, quindi con Balotelli e Sharawi e probabilmente Niang, non ha bisogno di, secondo me, di portare tantissimi uomini oltre la linea della palla, può credo sopportare e supportare tutto il peso offensivo anche con 4 giocatori. Sì. Inutile negare che al centro della pista del circo di San Siro ci sarà Mario Balotelli. Tutti gli interisti, quando è arrivato, nessuno escluso, anche quelli che lo negano, hanno pensato: matematico che questo segna nel derby. Qualcuno si è spinto oltre, ha detto: matematico che segna nel derby, bacia la maglietta e viene ad esultare sotto la curva, eccetera eccetera. Insomma, io spero che venga fuori da questa partita una lezione di civiltà da qualche parte, anche se sono fortemente preoccupato. Sono fortemente preoccupato. Ma guarda, sono fortemente preoccupato anch'io, perché mi sembra che il pubblico italiano abbia un livello molto basso di civiltà, e quindi credo che dentro lo stadio in Italia si svuoti veramente il lato peggiore delle persone, quindi questo non mi fa ben sperare. Io credo che sia giunto il momento di dare un segnale importante. Credo che però anche Balotelli debba dare un segnale importante. Potrebbe essere la grande occasione per lui, Andrea, perché gli insulti del pubblico ci saranno, vediamo se e quanto civili, i fischi ci saranno e quelli ci possono anche stare. Pensa se Mario non dovesse raccogliere la provocazione, che lezione darebbe? Io credo di sì, credo che davvero sia, cioè questo possa essere, io immagino che le provocazioni ci siano e ci saranno, così come presumo, non lo so, ma ci siano e ci saranno anche per Cassano. Credo però che non raccogliere queste provocazioni, dimostrare di essere superiori, possa essere davvero un segnale importante da mandare, ammesso che poi dopo la gente lo capisca, perché visto quello che è successo per Lazio Borussia Mönchengladbach con gli accoltellati, o quelli che lo Tito ha chiamato puncicati, e vabbè, allora sì, puncicati, dire, e poi la solita storia, bisogna distinguere tra delinquenti e tifosi, ma l'abbiamo sentita, è la stessa cosa che ha detto dopo i cori razzisti dell'altra volta. Sono più o meno 45 anni che la sento quella esatto, lì. Esatto. Sarebbe ora di darsi una risposta. Sì. Andrea, ti chiedo un'ultima cosa, un'altra cosa che mi ha colpito in settimana, che vorrò approfondire nelle prossime settimane di tutti i convocati. Mi fa un po' ridere, ha degli aspetti un po' comici, la storia dello sceicco perugino di Roma. Ah, è meravigliosa, secondo me. Eh? perché lo sceico normalmente arriva dal Qatar col suo turbante, con una valigia, una cassa piena di dollari. Questo sono 25 anni che vive a Perugia, è giordano, sì. È entrato in un paio di operazioni non riuscite benissimo, diciamo così, e adesso arriva a Roma, ne succedono di tutti i colori, questo sì, lo sappiamo. Come dicono a Roma, vediamo che non sia una sola, perché cioè io francamente... Io ho sempre tantissimi dubbi quando entrano questi che promettono grandi capitali nel mondo del calcio, perché insomma, il mondo del calcio non è esattamente il mondo, diciamo così, più limpido a livello economico finanziario che ci sia. E allora ho sempre dei sospetti, insomma, comunque mi sembra che sia un mondo pieno di affaristi, di gente che vuole guadagnarsi, di cialtroni. Anche di cialtroni, per dirlo alla Monti, ecco, quindi io francamente aspetterei, ecco, prima di giudicare. Poi capisco anche il desiderio dei tifosi della Roma di avere una proprietà forte. Questo chiaro. Anche se francamente mi sento pure di dire che la Roma quest'anno aveva una grandissima squadra, avesse pure avuto un allenatore nella prima parte del campionato che insegnava a difendere, forse avrebbe subito meno gol e sarebbe un po' più in alto in classifica. Non c'era bisogno di andare a prendere lo sceicco arabo giordano perugino, diciamo. Sì, guarda, nel rapporto qualità-prezzo la Roma è stata la squadra più deludente fin qui. Secondo me, guarda, io lo dico spesso sempre con persone del mondo del calcio, cioè, secondo me è la squadra potenzialmente più forte che c'è in questo momento, perché ha dei giovani che sono straordinari. Penso a Pjanic, Lamela... Io considero giovani anche Totti, perché per quello che fa la sua età, ma veramente dei giocatori notevoli. Non c'è dubbio. E aggiungiamoci anche De Rossi, che non sarà giovane, ma è un giocatore notevole con cui l'allenatore non li sopra. Chiaro che se non li sfrutti, vuol dire la Roma ha ancora destro, che sarà un progetto di ottimo centravanti, però è giovane, è loro ed è un ottimo attaccante, cioè non ce l'hanno in tanti destro. La Juve un giocatore così là davanti non ce l'ha. Averne. Andrea, ti ringrazio. Buon viaggio. Grazie a voi. Grazie Andrea. Grazie ad Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport. Tutti convocati Magazine. Ve lo confesso, questo è il mio momento preferito nel magazine del sabato, cioè l'occasione e lo spazio per risentirvi, per risentire i migliori interventi dei nostri amici convocati nel corso della settimana. Terzo gradino del podio per Alessandro. Alessandro Udine, buongiorno. Buongiorno, forse io adesso spiazzo tutti. Spiazzi chi vuole. Volevo chiedere. Le metto il pallone sul dischetto. Che ogni tanto si dedicassero alcuni secondi, su ore dedicate al salto, un campione vero. Si chiama Fabiano Caruana, classe 1993. Sì. Ora, oggi, è uno dei migliori giocatori di scacchi del mondo. Scacchi del top 10. Perché gli scacchi sono uno sport olimpico con tanto cinque cerchi inanellati. Caruana oggi se la gioca con chiunque e raggiunge risultati stellari torneo dopo torneo. Dice tantissimo. Sono due secoli circa che l'Italia non era competitiva negli scacchi. Oggi abbiamo un vero campione, classe 1993. La stessa classe del miglior giocatore del mondo. E ogni tanto, diciamo 10-20 secondi, dedichiamoglieli. La saluto cordialmente. Sì, poi la discussione si è fatta un po' lunga, possiamo insomma chiacchierare a lungo sul fatto che sulla legittimità dell'ammissione sotto i cinque cerchi olimpici di un meraviglioso gioco come gli scacchi, ma tale è, insomma, a mio parere, è un gioco. Quando viene esclusa la lotta, vengono ammessi gli scacchi. Boh, sarà questione di gusti personali, mi sbaglierò io, o forse avrò ragione, ne parleremo un giorno. Intanto arriviamo al secondo gradino del podio per Salvatore. Salvatore, Como. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato, ben convocato. senta, sì, tifoso juventino, stasera le do il risultato, secondo me, Milan 3, Barcellona 1. E poi, tifoso juventino o fa il gufo? No, tifoso juventino, per comodità in questo caso è meglio che vinca il Milan e non il Barcellona, perché noi andando in finale... Ah, fatti i suoi, bravo, bravo, non c'era ecco, arrivato. Io sto iniziando fesso a sognare. Fesso io, ha fatto i suoi conti, ecco perché... Poi le dico un'altra follia, ed è la finale... Sì, perché questa Juventus, è una follia. Sì. Juventus-Galatasaray. Ecco, registri queste parole perché piacerebbe, poi a maggio le sentiremo. Allora, allora, Salvatore, provincia di Como, me le ripeta che noi le registriamo. Juventus-Galatasaray è la finale di Coppa Campioni, Champions League che sia. L'ha detto lei, eh? L'ho guardi che noi conserviamo le prove, eh? Perfetto, poi ci risentiamo. Intanto le faccio i miei complimenti alle centraliniste e a lei come terminale di attacco di questo ottimo team che è a Radio 24. Salvatore non è mica andato lontano, avrà anche fatto i suoi conti, ma lontanissimo non è andato. È 3-1, 2-0 per il Milan e abbiamo uno juventino, almeno uno juventino contento. No, ma sono diversi i messaggi che sono arrivati da tifosi di altre squadre, non so quanto veritieri di complimenti al Milan. Allora, arriviamo alla medaglia d'oro tra i nostri ascoltatori di oggi. Allora, la medaglia d'oro va a Firenze. Franco Prato, buongiorno. Senta, intanto vorrei, dato che ieri è stato dato un premio a un grande allenatore, secondo me, gli do il secondo premio, quello dell'antipatia, ma vorrei dare un premio alla curva di ieri sera, di Fiorentina-Inter. È il premio dell'ironia che certamente noi toscani, fiorentini in particolare, ci meritiamo. Quando abbiamo iniziato a cantare il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo, ha capito cosa significa? Sì, me la canti però. Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo, perché i giocatori dell'Inter proprio non sapevano dov'era, non sapevano qual era. Non la strusciavano. È stata una cosa meravigliosa. Per quello poi che i miei amici simpatizzanti della Viola hanno detto la scorsa settimana, io vorrei ricordargli che è un cantiere aperto. Può darsi che ma un gran bel ci sia cantiere. Una partita che va un pochino male. Il gioco ce l'abbiamo sempre avuto e credo che la Fiorentina quest'anno sia in una situazione di classifica che nessuno, assolutamente nessuno, si sarebbe aspettato. Guarda. Beh, ditemi voi se non è pallone giallo, se non pallone d'oro, questo ascoltatore di Prato. Dunque, siamo quasi in chiusura del nostro magazine. Avrei anche ancora molte cose da raccontarvi, ma non ho tempo. Speriamo che prima o poi me lo diano. Vi racconto per chiudere la settimana, ritorno quantomeno per chiudere sulla settimana importante per la politica dello sport italiana, oltre che per la politica tout court, come ben sapete. A proposito, martedì non ci siamo, ci sono gli speciali elettorali, quindi tutti convocati, sta in panchina, starete in panchina anche voi, ma pronti e belli carichi. Però settimana delle elezioni, quelle del CONI, vittoria a sorpresa di Giovanni Malagò. Queste le sue prime parole da presidente del CONI. La mia emozione è talmente forte che devo solo dire grazie, come ho detto, mi ha dato fiducia. Nello sport è molto facile vincere, molto difficile anche mettersi nei panni di chi non vince. Io mi abbraccio e lo dico da sportivo, con assoluta sincerità, Vallello. Vi prometto che farò di tutto per onorare quella che per me è la più importante carica che c'è nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Vabbè, commozione, buonismo, fair play di Malagò, che poi ha parlato anche al microfono del nostro Dario Ricci. Programmi, idee per lo sport italiano. Io lo sapevo che potevo contare su questi numeri, probabilmente per la gente esterna è stata inaspettata. Quali sono stati però i punti del programma che possono aver fatto la differenza? Perché sicuramente è stata un'attività di lobby importante, però i punti forti del suo programma che secondo lei hanno fatto la differenza? La voglia di cambiare, di avere un'area diversa, regole di governance che onestamente sono sotto gli occhi di tutti abbastanza fuori moda. Siamo in momenti di crisi, è stato importante trasmettere un messaggio che è stato recepito, che non c'è più il one man show, ma qui abbiamo bisogno veramente di avere valore aggiunto da tutte le componenti che lavorano per il CONI. Si sente di dare un suggerimento ai protagonisti dell'altra elezione, quella di domenica e lunedì? No, ma è un suggerimento di mantenere le promesse che fanno. E questo lo vedremo. Allora, domani vi lascio al duo Gattuso Ferentino per Dai e Vai, consueti orari 16.30, 19, 22, 23. Lunedì ovviamente siete convocati e vi aspetto, guardate che vi conto, vi controllo. E poi martedì tutti a riposo e mercoledì ripartiamo con mercoledì naturalmente, martedì tutti a riposo per lo speciale elezioni e poi ripartiamo mercoledì con tutti convocati naturalmente. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.